Ecco, oggi diciamo, 2 agosto è anche la memoria di Santa Maria degli Angeli, no? C'è un motivo che riguarda la Porziuncola di Assisi, no? Oggi è il giorno del perdono di Assisi e quella richiesta che fece San Francesco al Papa di allora di fare in modo che in quel piccolo luogo dove lui si metteva a pregare e dove anche poi è morto e dove ha, la tradizione dice che ha concluso il Cantico delle Creature, quel piccolo luogo, quella piccola chiesetta potesse essere un luogo dove la gente, i poveri, quelli che non avevano possibilità di andare in Terra Santa o di andare in pellegrinaggio, dove si poteva ottenere il perdono, no, dei giubilei, no, l'indulgenza dei luoghi santi, che potessero invece ottenere, ecco, anche solo visitando quella chiesetta povera, legata alla sua storia e agli inizi della sua vocazione, quindi anche di tutto questo movimento francescano che in quegli anni appunto riempì l'Europa e poi il mondo. E lui chiese che addirittura tutti i giorni potesse esserci, cioè, sempre, no? La possibilità di avere l'indulgenza e quindi la facilitazione del perdono di tutti i peccati. E sulle prime il Papa, sicuramente entusiasta, gli disse di sì. Poi invece così i curiali, no? Non so bene la storia, ma comunque la storia è questa, dissero che era troppo e allora lo ridusse solo a questo giorno, no? Il 2 di agosto, che poi è universalmente conosciuto come il perdono di Assisi. E poi più tardi, dopo la morte di San Francesco, eccetera, fu costruita la basilica sopra questa Porziuncola, questo piccolo luogo, che è stata dedicata a Santa Maria degli Angeli. I francescani hanno questa devozione in modo importante proprio per questo motivo. Pensate che, ho scoperto ieri, appunto, cercando qualche notizia, che la città di Los Angeles, che sarebbe Los Angeles, in realtà il nome completo di questa città è in spagnolo Città della Basilica di Nostra Signora degli Angeli sulla Porziuncola di Assisi. Questo è il nome di Los Angeles, che prende nome effettivamente da un insediamento, cioè francescano, no? Che furono i francescani ad andare a evangelizzare quelle terre, no? E poi senz'altro noi sappiamo che nell'Opus Dei questa realtà di Santa Maria degli Angeli ha un legame con, quindi oggi è il 2 agosto, invece col 2 ottobre, no? Il 2 ottobre è il giorno in cui il giovane San José Maria, facendo quei suoi giorni di ritiro a Madrid, no? Dopo la messa dopo la colazione della sua stanza, nella sua preghiera, rileggendo gli appunti delle grazie ricevute dal Signore, a un certo punto vide la realtà dell'Opus Dei, che il Signore gli chiedeva, che non aveva questo nome, gli chiedeva di mettere in piedi nella chiesa, no? E fu, come dire, preso da questa visione e fu riportato alla realtà del tempo presente, dalle campane della chiesa di Nostra Signora degli Angeli, che stava, non era proprio lì accanto, ma però si ascoltava bene perché non c'erano edifici in mezzo. E così poi successivamente una di queste campane, no, fu recuperata e adesso sta nel santuario di Torre Ciudad, è quella che suonano alla consacrazione quando si fa la messa all'aperto. E poi San José Maria ha, per questa devozione a Santa Maria degli Angeli, ha voluto che fosse dedicato a lei l'oratorio di Cava Bianca, no, del Collegio Romano della Santa Croce, dove studiano i numerai, che poi molti dei quali diventano sacerdoti, e studiano a Roma, ecco, vicino alle tombe degli apostoli, vicino al Papa, vicino al prelato, al padre. Ecco, questi sono, come dire, i riferimenti, qualche riferimento di tipo storico sulla memoria di Santa Maria degli Angeli, che volendo si può celebrare oggi. E comunque noi la ricordiamo nella nostra preghiera. Certo, io poi pensando all'origine di questa devozione, di questo legame tra gli angeli e Santa Maria, ho pensato che certo nel Vangelo Maria entra dentro al Vangelo, proprio alla storia della salvezza, proprio attraverso un angelo, attraverso l'angelo Gabriele che portò l'annuncio a Maria, l'angelo Gabriele che entrò da lei, no? In quella città di Nazareth, ecco, in quel racconto dell'annunciazione che l'evangelista San Luca riporta all'inizio del suo Vangelo. E noi che noi ricordiamo tutti i giorni quando recitiamo l'Angelus. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrato da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. E voi sapete che appunto in questo Maria a questo saluto fu, a queste parole fu molto turbata, ma non fu molto turbata dall'apparire dell'angelo, come invece è successo al suo parente Zaccaria, che si spaventò della presenza di un angelo. E questo ci dice come in qualche modo ci può dire, no? Come Maria fosse in sintonia con la presenza degli angeli, in sintonia con questi messaggeri di Dio, pronta a ricevere l'annuncio di un messaggero di Dio. Il tipo di annuncio che l'ha sorpresa, no? Il tipo di annuncio è quello che conteneva in sé, no? E così come poi dopo noi vediamo sempre nella vita di Maria la presenza degli angeli nella nascita di Gesù, quando la presenza degli angeli arriva come notizia a lei attraverso l'annuncio dei pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fascia adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Per cui Maria, tu nel tuo cuore conservi tutte le cose che accadono nella tua vita, ovviamente, ma e tutte le cose che riguardano Gesù, il bambino che è nato dal tuo grembo e che è stato messo nel tuo grembo dall'azione dello Spirito Santo. E possiamo dire conservi, il Vangelo dice così, ciò che gli angeli ti hanno detto. Poi è anche interessante vedere come gli angeli nei confronti di Maria agiscono in modo molto discreto, possiamo dire così, perché in fondo lei ha visto, da quello che dice il Vangelo, quello che sappiamo dal Vangelo, solo un angelo all'inizio della sua vocazione, no? Che è Gabriele, che peraltro entra da lei in modo molto, molto appunto normale, non con tanto strepito, no? Non con tanta, non so, ecco, non si nota per esempio, perlomeno nel suo racconto del Vangelo. Invece gli angeli sono, appunto, fanno vedere tutta la loro luce, la loro gloria, il loro canto, la loro felicità ai pastori, cioè non, come dire, che siano i pastori ad andare da Maria a dire loro che cosa hanno detto gli angeli. È singolare questo modo di fare, ma è molto bello se pensate che gli angeli ci possono parlare anche attraverso altre persone, e addirittura la Madre di Dio parlano attraverso i pastori. Sicuramente Maria, Madre di Dio, e anche Giuseppe sono capaci di cogliere, cioè di credere a quanto, anche se si stupiscono, a quanto i pastori dicono loro di ciò che hanno detto gli angeli. E poi pensate che nella vita di Maria gli angeli sono molto presenti attraverso Giuseppe, anche lì, no? Qualcuno ha fatto notare giustamente che, perlomeno per quanto sappiamo dai racconti dell'infanzia di Gesù che riportano i Vangeli di San Matteo e di San Luca, sembra quasi che, anzi i dati sono proprio questi, che Giuseppe abbia ricevuto più visite di angeli che non Maria. Anche lì lei ha saputo da Giuseppe, no? L'annuncio che l'angelo ha fatto a Giuseppe, e prima l'annuncio, sempre poi accade a Giuseppe che questo angelo, questo messaggero del Signore, appaia in sogno. E all'inizio forse il più importante annuncio è quello appunto del non avere paura. Mentre stava considerando queste cose, quindi quello di l'ipotesi di scindere la sua vita da quella di Maria, di prendersi la colpa di quella gravidanza, ma allo stesso tempo, insomma, ecco, ripudiarla in segreto. Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Questo è diciamo così, l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, il più importante, che segna tutta la sua vita. E poi c'è l'apparizione dell'angelo in sogno a Giuseppe per dirgli di fuggire in Egitto, no? Quando erano appena partiti i magi, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. E poi più avanti: morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Poi lui si alza, prende il bambino e sua madre, va e entra nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth. Sono quattro apparizioni in sogno degli angeli che sicuramente Maria ha conosciuto attraverso la confidenza di Giuseppe, perché poi hanno segnato anche la sua vita, hanno segnato la sua vita, la vita di Maria. Forse, ecco, da tutti questi dati possiamo capire l'invocazione Santa Maria degli Angeli. Lei, la sua vita è stata segnata dall'incontro con gli angeli. Gli angeli hanno portato a lei il messaggio di Dio e l'hanno portato a Giuseppe, anche sia sull'orientamento di tutta la vita, sia su questi orientamenti piccoli che sono di salvezza del bambino e del loro, no? Fugge in Egitto, poi torna, poi addirittura l'angelo che dice: sì Giuseppe, hai ragione, la tua paura è ben fondata, infatti fa parte del progetto di Dio quello che tu hai deciso a partire dalla tua paura. E Maria è abituata al rapporto con gli angeli, e vuole bene agli angeli che la circondano, perché tante volte poi nella normalità della sua vita lei non si accorge, o perlomeno non è così palese la presenza degli angeli, ma sicuramente è così, cioè gli angeli custodivano lei, Giuseppe, il bambino, non si allontanavano dalla loro custodia. Poi ci sono, pensate, gli angeli nella vita di Gesù, pensate a Maria come ha dovuto soffrire fin dall'inizio, quando Gesù è andato nel deserto a digiunare ed era anche tentato, e lei in qualche modo lo sapeva, come è stata grata a quell'angelo che per primo ha servito Gesù al termine di quel periodo di preghiera e di digiuno, no? Di quei 40 giorni. Quando lei è arrivata e ha potuto dare da mangiare a Gesù, dare da bere a Gesù e lavargli le vesti e portargli vesti pulite, l'angelo già lo aveva servito e confortato. questo accadrà anche nel Getsemani, alla fine della vita di Gesù, in quella preghiera, no? Un angelo lo confortava, poi gli angeli sono presenti e circondano l'evento della resurrezione di Gesù. Forse anche lei li ha incontrati, come anche le donne che sono arrivate dopo di lei all'incontro con Gesù. Hanno visto gli angeli gli hanno annunciato che era risorto. Maria Maddalena li incontra, anche le altre donne. E poi, naturalmente, anche se il Vangelo non narra l'assunzione in cielo di Maria, tutta la, sì, non solo l'iconografia, ma la liturgia, la pietà cristiana, la vede circondata dagli angeli. E questa donna di cui parla l'Apocalisse, vestita di sole, la luna ai suoi piedi. E circondata Maria dagli angeli che la servono. Pensate spesso nell'iconografia, anche in questo stesso oratorio dove stiamo facendo la nostra orazione, attorno a Maria ci sono angeli bambini, no? Ma col volto di bimbi piccoli, e pensate al ruolo di angeli, di messaggeri, quindi della volontà di Dio, di custodia della nostra vita, che appunto la pietà cristiana attribuisce ai bambini morti prematuramente, no? E sicuramente è così. Questi bambini che nella loro piccolezza stanno, appunto i loro angeli vedono il volto del Padre mio, dice Gesù, no? Gli angeli di questi bambini, ma e quindi questi bambini anche morti prematuramente custodiscono la loro mamma, il loro papà, i loro fratelli e poi e tante altre persone. Cioè, i bambini sono molto importanti per Dio, perché sono l'immagine di quello che tutti noi dobbiamo essere per entrare nel Regno dei Cieli. E forse possiamo chiedere alla Madonna degli Angeli, alla Regina degli Angeli, a Santa Maria degli Angeli, di aiutarci a vivere così, alla presenza degli angeli, attenti ai loro suggerimenti, che poi sono quelli che vengono da Dio o che vengono da Maria, no? A volte sono gli angeli che ci portano i messaggi del cielo e ci custodiscono, ci confortano, ci guidano nel nostro cammino, e non siamo soli. Non siamo soli, e per questo ecco, il cielo è popolato da tante persone care, no? Dalla famiglia di Nazareth e da questi angeli che l'hanno sempre accompagnata. E noi chiediamo a Maria in questo giorno, ecco, di saper vivere come lei nella normalità e allo stesso tempo nella compagnia degli angeli, saper ascoltare la loro voce, il loro suggerimento, come lei e Giuseppe seppero fare.